E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18, rigorosamente in diretta dal Brancaleone, rigorosamente perché appunto siamo qui tutti i venerdì e ringraziamo ancora il Brancaleone che ci mette a disposizione lo spazio per portare avanti questo progetto. Detto questo, iniziamo questa puntata. Qui alla mia sinistra ci sta il mio amico Luchino, che nel frattempo gli è partito un po' di tosse, e iniziamo raccontando insomma quello che è il tema della puntata, appunto le cose che ci fanno più ridere. Quindi passo il mic direttamente a Luchino e vediamo cosa ci racconta, cosa lo fa sorridere e ridere a più non posso. Buonasera a tutti, sono Luca. Allora, a me le cose che fanno più ridere sono uno youtuber di nome Rimoldigno, che ha fatto arrabbiare il padre per certe notti, e una volta il padre gli disse: Vai a letto perché altrimenti ti finisci male, vai a letto. Non ridere. Tu stai facendo l'imitazione di uno youtuber che a te fa impazzire, però racconta un po' qualcosa di questo youtuber. Io per esempio non so chi sia, io anzi a questo gli darei qualche anno di galera, però appunto racconta chi è. Rimoldini è uno youtuber milanese con cui fa tante cose col padre, queste cose tipo questa cosa scemenza, fa video, fa molte cose. Poi come altre cose mi fanno ridere, tipo che Cozzalone: mi basta, basta, non ce la faccio più, non ti sopporto più, Melizia è scassato. Poi mi fa ridere: chi è sto Gianlu? So io, Scenni. Giamaica, appunto, sognando la Giamaica, questo è il senso. Racconta chi sono, insomma, cioè tu stai portando dei personaggi che non tutti conoscono. Vabbè, gli ultimi sì, conosciamo tutti, Gianluca e compagnia bella, però appunto, cioè, quindi tu sei uno che si diverte guardando cose su YouTube. Sì, poi lui ha fatto come altri, tipo ha fatto una volta... E Rimoldigno, questo youtuber milanese, ha fatto arrabbiare il padre perché ha comprato l'Apple Vision Pro da 4.000 euro. Ha detto: alcune scemenze sì, ma questa proprio no. Tutto questo per dire che nessuno di noi si comprerà un Apple, perché a parte non ci abbiamo i soldi, quindi c'è già un pensiero in meno. Quindi diciamo che te ti fanno ridere, quindi questi youtuber che tempestano i vari social di cose. Infatti, ma una volta mi hai raccontato pure di cose di TikTok che ti facevano sorridere, insomma, quindi vabbè, queste sono le generazioni appunto che seguono anche queste cose su internet. E altro cosa ti fa sorridere? Tipo, allora, a me fa ridere tanto mio padre che suona il clacson mentre sta in macchina dicendo: poi immortali, qua roba là, insomma. Poi mi ha fatto ridere una volta e dite di Pietro che è stato così, io mi sono messo tanto a ridere e non riuscivo manco a stare zitto con un fiato. Poi mi fa ridere tanto mio fratello, è un fiato per... Poi mio Leonardo mi fa ridere e fa e poi mio fratello che ogni volta bestemmia: avete rotto il cazzo. Ecco, magari appunto non diciamo le parolacce, te devo blastare subito, però vabbè, era preso dall'enfasi del racconto. Comunque a lui, insomma, abbiamo capito che a Luchino fanno ridere tutte quelle situazioni dove le altre persone si mettono, diciamo, un po' sopra le righe a discutere con altre persone, che ci può stare, insomma. L'importante è che poi si finisca con delle risate. Allora, passiamo un altro pezzo e poi torniamo con le tue consuete rubriche. Sì. Mi sveglio ed è passata solo un'ora, non mi addormenterò. Ancora 8 lune nere e tu la nona, e forse me lo merito, la vuoi la verità? Ma quale verità? Ti dico la sincera o quella più poetica? Mi sento scossa, ah, ma quanto male fa, come morire ma non cade. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18, poi ovviamente potete riascoltare tutti i podcast delle nostre stagioni su archive.org. E ripasso il mic al nostro amico Luchino con le sue consuete rubriche. Offerte Tigre, Sprite a 1,59 euro, Loger Cacao a 59 centesimi, Fragole a 1 euro. E ora è il momento delle battute. Cosa fa un biscotto che piange? Gocciola. Come volano i fazzoletti? Col tempo. Il maestro dice a Pierino: esistono i mammiferi senza denti? E Pierino risponde: sì, mia nonna. Un bambino alla mamma: ehi mamma, dov'è Filadelfia? Nel frigorifero. Una suora dice alle altre suore: chi ha ordinato le pizze? E noi. Il maschio dice alla suora: ma quindi tu sei su ordinazione? Fenomeno, questa era la meglio di tutte. Mi dispiace per chi ha amiche o parenti come suore, però c'è stata tutta. Quindi, tornando invece un po' anche a quelle che sono le cose che fanno ridere, a me c'è una cosa che mi fa sbellicare ogni volta che la sento, e so svariati anni che la sento raccontata, quindi ora la passiamo così, insomma, facciamo una risata tutti insieme. È un pezzo di Battista. Io Mozart non lo conoscevo, ma Stockhausen sì, perché a Roma si dice: oh, è arrivato Stockhausen, si dice a Roma. Dico: ammassa quanto si divertimo stasera. Parte la prima sonata di Mozart, 1:40, Massimo tienimi il conto, 1:40. Dopo un'oretta dici: tanto mi sveglio a casa, pensavi, dico, sto vivendo un brutto sogno. Finisce la prima sonata, 1:40, ritornano sti due. Ma lei si conosce la seconda sonata, caro Marchese Stockhausen? A riparte un'altra sonata, 1:40. 2:30. Allora, papà. Dopo un'oretta, che era 3 ore, uno dietro mi fa: scusi, dica, ma non era fuori gioco? Perché ognuno vedeva quello che gli pare. No, questo è il pezzo triste, quello da ridere viene dopo. Così. Passa un'altra ora e mezza, siamo su 3:30. Ritornano questi due. Ah, ma lei conosce la terza sonata, caro Marchese? Non faceva manco più ridere sto cazzo. Parte la terza sonata, 4:30. A fine, no? Certo punto, stavo così 4:30. Sai come stavo? Hai visto quando fa in viaggio in macchina di notte? Che uno guida e quell'altro sta vicino, verso le 4 fa a Firenze, fa: soviamo un caffè? E quello fa, sta così, e fa: soviamo un caffettino, e va in mezzo alla boscaglia, hai visto? Lo devi andare a recuperare. Io stavo come lui. Aspetta. Bobby è il bello, questo è triste. Parte. Finisce la terza sonata, 4:30, dice: è finita, giusto? A ritorno ai nostri due. E noi, che? Conosce la quarta, caro Marchese Stockhausen? Ah, gente, ha cominciato a rumore già. Fa: guarda, oh, che erano 3, oh, guarda, oh. Uno fa: scusi, quando è troppo, signore. Sarsa una signora robusta, romanascia, va: ho capito, ci vado a parlare io col pianista. E il marito fa: Teresa, non c'è a te che passiamo dalla parte del torto. Parte, no, ma da ride ancora deve venire. Parte la quarta, però mi dite che, lo dico, siamo stati bene storetta, vi voglio bene, fidatevi di me. Finisce la quarta, adà, c'è un millesimo di secondo di silenzio, un millesimo, e esce questa cosa. Sente, fa così, guarda. Bis! Scatta, caccia all'uomo. In 7-8 saremmo mossi di dietro, l'abbiamo presa. Questa è la bocca della verità lì a Circo Massimo. Non ti dico le botte. Mi facevo: a merda! Ma l'ho fatta a merda! Perché hai detto bis? Perché merda, quello fa. Chi ha detto bis? Hai detto bis! Ho detto biscotto, sto lì dai 5! Oh! Oh, aspetta! Torniamo là. Questo finisce il B, tutti se ne vanno, è lì, tutti se ne vanno. Sergio fa: andiamo. Dico: andiamo, salutiamo artisti, perché artisti vanno sempre salutati. come stasera, quando finisce? Devo salutarsi? Ma a casa non ci vedono, ma qui siamo salutati. Esce sto signore in borghese, un bel signore, alto, distinto. Mi fa, lo chiamo, dico, scusa sto ca. Ma noi a te te male. Ma che te avevamo fatto? E ritorniamo in diretta. Questa appunto era una delle cose che spesso raccontavo, appunto il famoso Stokasen. Ora Luca ha capito a cosa mi riferivo. Detto questo, appunto abbiamo parlato un po' delle cose che ci fanno ridere. A me appunto fanno ridere tutte quelle persone quando ti parlano, che ti raccontano delle cose allucinanti e ti continuano a dire, ma hai capito? Hai capito? Hai capito? Quindi cioè, questa è obiettivamente una cosa che mi fa ridere. Allora, passiamo un altro pezzo, oppure qui alla mia sinistra c'è il fido amico Ciccio. Che vogliamo fare? Passiamo un pezzo o iniziamo a raccontare un po' di cose? Ok, prima passiamo un pezzo e andiamo di play. Ah, un pezzo che ha portato lui, perché obiettivamente è un grande conoscitore, amante di questo gruppo. Un gatto blanco de buen humor, un búho sobre el televisor, humo en el aire, olor a incienso. Sus ojos dulces de un rosado intenso. Da filtros contra la soltería y las recetas de la alegría. Lee el destino en las estrellas. Te dice solo, solo cosas bellas. Mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá. Era estupendo si fuese un rey, aquella rubia americana, o se enamora o la transforma en rana. Me muero de la curiosidad, dime un poquito de la verdad, quiero saber si con este amor seré feliz o tal vez será peor. Mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá, mamá. Mamma Maria, ma, ma, ma, ma, ma, Maria, ma, ma, ma, ma, ma, Maria, ma. Un chavo, pero quisiera comprar el cielo, dárselo a ella y el sortilegio de la fortuna para comprarnos la cara de la luna. Mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá, mamá, mamá María, mamá. Jolly Roger potevamo mettere, appunto, un pezzo talmente famoso che lo potevamo sentire tutte le lingue del mondo, lo si sarebbe cantato in qualsiasi, con qualsiasi lingua, appunto. Allora Ciccio, torniamo a noi, o veniamo a noi. Si parlava appunto delle cose che fanno più ridere, quindi raccontaci tu le cose che ti divertono di più. Io, buonasera, sono Matteo, io racconto ridere, io, mamma, da giro a zia Lollo, e zia Lollo, tu sia, mamma, guida la, no, no, no. Aspetta, allora, diciamo che lui, sono due le cose che ha detto che gli fanno ridere, appunto quando sente che parla la mamma con zia Lollo, che si divertono e si fanno gli scherzi a vicenda, e poi la seconda cosa è quando? E quando mamma qui la macchina, tante una con le pizzone. Ok, vabbè, mica sempre urla quando c'è bisogno. Quindi pure a Matteo gli fa ridere, appunto, come a Luchino, anche il discorso che quando stanno in macchina magari, appunto, qualche qualche parolaccia, ma appunto in macchina ancora consentita, poi fino a quando saranno consentite, però appunto magari sono cose che uno non si aspetta, Matteo appunto si diverte. E Ciccio, e altro, tu hai portato un ospite, presentalo e fai gli onori di casa. Marco, e a te... a te mi piace no, cosa ti fa ridere? A te, Marco, a ridere. Allora, innanzitutto ciao a tutti, insomma è sempre un piacere venire qua alla radio con Matteo, è sempre un onore. Allora, riguardo la tua domanda, Matteo, allora bella domanda. E no, comunque penso, prima cosa che mi viene in mente, penso le battute tra gli amici, no? Le risate tra gli amici in compagnia. Sì, comunque le battute tra gli amici, diciamo le cose che ci diciamo, ecco, quando sta in compagnia con loro, ecco. Piero. Perfetto. Allora, Marco è venuto più di una volta che viene ormai come ospite, insomma, e quindi sembra doveroso anche a lui fargli portare i suoi pezzi. Quindi ora passiamo un pezzo che ha portato lui e poi ritorniamo in diretta. As a friend, as I know. ritorniamo in diretta. Come si diceva, siamo passati appunto dai ricchi e poveri ai poveri Nirvana, però è un bel escurso, a noi ci piace così. Anche questo è Jolly Roger, è un po' una contaminazione di vari generi e musica che comunque ci accompagna durante i nostri pomeriggi. E, Ciccio, andiamo a noi, volevi chiedere qualcosa a Marco visto che è venuto? Marco, sei venuto? Certo, più di una volta, insomma. Sei una volta, vero? È certo. Senti, ma Marco, questo weekend che fa? Dagli prima le previsioni del tempo. Sabato nuvoloso, ma domenica nuvoloso, ma c'è un tempo con il sole, Marco. E quindi che si fa? Una passeggiata, ma. E tu che fai, Marco? Beh, io questa settimana vedo la Roma innanzitutto, come prima cosa in assoluto. Poi sono costretto pure a studiare durante questo fine settimana, vado anche in palestra e penso basta. Sì. Ok, quindi tu che cosa farai questo fine settimana, Ciccio? Diciamolo ufficialmente, il tuo ultimo weekend da diciottenne, perché il prossimo weekend sarà il tuo compleanno. Sì. Io non vengo venerdì perché io faccio la festa prima parlo a scuola. E Ciccio, quindi festeggerai come? Racconta come festeggerai. Già sai come festeggerai o te devo fare la festa io privata? No, di tutto? No. E io faccio la festa a parte del... Io parlo del tupello alle 8 e alle 10. Alle 10 vedi? E poi festeggi a scuola? Sì. E poi? E vedi, festeggiamo qua o no? Sì, meglio, vero? Va bene, allora andiamo con un altro pezzo? Sì. E dai. Dai, oh. C'è chi mi chiama figlio di puttana, che c'è di male, l'importante è aver la mamma, che non lavori troppo, che la vita è breve, a volte un mese. Se prendi il treno, sai, ci metti meno, e non l'hai visto il meteo, non l'hai visto il cielo, ma a volte ci si vuole troppo bene, anche così un giovedì senza un sì, come viene, come faccio a volere una vita in incognito, se parlo solo di me, se basta un titolo a fare odiare un intero popolo, non lo conosci, non me, no, sta arrivando l'onda alta. Siamo fermi, non si parla e non si salta. Senti il brivido, ti ho deluso, lo so. Siamo più dei salvagenti sulla barca. Sta arrivando l'onda alta. Non ci resta che pregare finché passa. Sembri timido, mi hai sorriso, no. Sono già promesso sposo con un'altra. Ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta. Quando hai meno, vivi più sereno, abbiamo tutto ma ci manca sentimento, e non riusciamo più a volerci bene, neanche così un giovedì senza un sì, come viene, come faccio a volere una vita in incognito, se parlo solo di me, basta un titolo a fare odiare un intero popolo, non lo conosci, no, sta arrivando l'ondata. Stiamo fermi, non si parla e non si salta. Senti il brivido, io deluso lo so. Siamo più dei salvagenti sulla barca. Sta arrivando l'ondata. Non ci resta che pregare finché passa. Sempre timido, mi hai sorriso, no. Sono già promesso sposo con un'altra. Guerra di cuscini, ma cuscini un po' pesanti. Se la guerra è dei bambini, la colpa è di tutti quanti. Abbiamo cambiato le idee. Abbiamo cambiato le idee, ma la madre e le altre donne non hanno niente da ridere. Hey, bambino, bel casino, sul palloncino, per riempire un frigo. Navigando, navigando verso Malta, senza aver nuotato mai nell'acqua. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, si parlava appunto di cose che ci fanno sorridere, cose che ci portano allegria, abbiamo sentito un po' di cosette e ora andiamo con la consueta rubrica sul calcio, quindi i pronostici del nostro amico Matteo, giocate con moderazione, qualsiasi persona riesca a vincere, a portare a casa anche 1000 lire, noi siamo qua tutti i venerdì nella speranza di scroccare una merenda, giusto? Sì. Perfetto, allora andiamo con le partite. Vai. Io dico Empoli-Bologna, pite l'Empoli, Juventus-Genoa, pite la Juve, poi l'altra partita portatissima, Inter-Napoli, Pierro. E chi vince? L'Inter. Vince l'Inter. Vai. Vabbè, diciamo, poi sono usciti vari sorteggi, Champion, Europa e compagnia bella, però non diciamo perché appunto lo scoprirete leggendo, ascoltando i giornali, noi ci manteniamo sopra le parti. Quindi... Pierro, io una cosa, via mio amico Sarri. Andato... Ah, ma senti, ma il tuo amico Sinner invece? Il tuo amico Sinner? Ah, Tinner, una cosa. Tinner, come mio amico Tinner, ma forte, Piero. Ma quando gioca? Domenica. Perfetto, domenica. Allora, noi andiamo con un altro pezzo e poi ritorniamo sempre qui in diretta. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back, back again. Shady's back, tell a friend. Guess who's back, guess who's back, guess who's back, guess who's back, guess who's back, guess who's back, guess who's back. No more, they want Shady, I'm chopped liver. Well, if you want Shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor. Some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating. When I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, come on your lips. Fuck that, come on your lips and come on your tits and get ready. Cause this shit's about to get heavy, I just settled all my lawsuits. Fuck you, Devin! Now this looks like a job for me, so everybody just follow me. Cause we need a little controversy, cause it feels so empty. Facing life or death, I was a thug ever since my mama gave me breath. These motherfuckers wanna see me die, So who am I? Try to warn him, a fucking bomb on the nigga's spot. Hey, remember me? Damn that Hennessy, the nigga you don't wanna see. Let me proceed, my definition of some thug shit. Y'all don't hear me, now that it's poppin', ain't no love, bitch. I'm maintaining the game, in the gutters where I still kick it. I'm tryna hustle up a meal ticket, I'm still wicked in my ways. I hustle to my dying days, ain't nothing wrong with getting paid. Some nigga blaze, cause we some motherfuckin' fools. Walking through the streets wearing shoes, breaking niggas, making moves. Even the cops can't stop us, my enemies flip when they see me drink a fifth of that Hennessy. Y'all niggas can't fuck with this old thug shit. They wanna know who's my role model. It's in the brown bottle, Hennessy. Fuck you, Devin. Now this looks like a job for me. So everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me. So everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. Please tell me what's a nigga to do. And it's true, ain't nothing new, so I do what I can to get through. Now first they got me dropping that bitch. I'm on an AK-47 laying on my hip, so I don't trip. One motherfucker from the underground, yeah. Big stretch fucking niggas if they fuck around. Hey yo, why y'all got beef with police? Ain't that a bitch? The motherfuckers got a beef with me. You know you really can't say that to blame niggas. Fuck being tame, set of flames, I'm a aim triggers. Tupac can spark a revolution. Fuck the Constitution. I want my bucks for restitution. This time you gotta pick a problem. Time to fake the niggas from South Central, up in Brooklyn and Harlem. And we ain't shooting at each other. That's a motherfucking brother. So take Duke, run for cover. And other bitches from the Klan can feel the wrath of a black man that does a smoke crack gang. I don't think say I genuine drive ganja ganja and my fucking tech nine. This looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I wasn't more shocked to him dying, I was more shocked to him. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, cambio di mic nel frattempo. Nel frattempo è arrivato anche il nostro amico Andrea, che poi ci saluterà. E, passiamo il mic ad Alice, che ci porterà intanto i suoi consigli di bellezza e poi appunto parleremo anche con lei quali sono le cose che più la fanno sorridere e divertire. Allora Alice, passo il mic e parliamo subito a bomba di questa. Oggi che prodotto porti e consigli agli ascoltatori? Allora, la crema che porto, ciao a tutti, oggi vi parlerò di una crema importante, che praticamente sul viso è molto importante. Ah, che crema è? Nivea. Ok, che parliamone, dai, parlane tu, io sai che di creme e cremette... Le Nivea sono molto, in generale, importanti perché, in generale, sono così importanti perché, allora, quando fanno dei prodotti, cioè, molto diversi, cioè, quando fanno dei prodotti come la mia, tipo, per esempio, io c'ho... E c'ho una crema e... Ah, questa crema Nivea, per cosa la usiamo? La uso per le grasse e per le pelli sensibili. Ok. E anche per le pelli sensibili, perché comunque quando uno c'ha una pelle sensibile, grassa anche, soprattutto, serve anche per quello. Perché quando è anche perché serve per ammorbidirle, serve anche per tutto ciò, non solo per ammorbidirle, ma per allisciarle. Ah, perfetto, quindi io pure, vedi, inizio ad averci un po' di rughette nel contorno occhi, me l'hanno fatto presente altre persone. Le creme in contorno occhi, ma uomo. Perfetto, già ho risolto il problema, quindi passo la Nivea proprio bocciata, però io di solito la Nivea, mo, a parte l'utilità e l'utilizzo, io la uso principalmente d'estate, perché d'estate soprattutto le gambe mi si seccano di più e quindi mi sono reso conto che usare una buona crema fa bene, soprattutto perché evito ogni volta di starmi a grattare a sangue e quindi tampono questa mia... Voi vedete le gambe, signora mia? Guarda che gambe, guarda, sono secche? un pochetto. Hai visto? Quindi, cioè, vedi, se c'avevo la neve a quest'ora, forse qualcosina in più potevo fare. Lo devo comprare, volevo comprare anche il nutriente normale. Ah, perfetto. Senti, io invece uso anche una neve, ma non mi ricordo a che cos'è, mi sembra Stavo che si usa, Madonna, sì. sì, che si usa soprattutto io la uso sotto la doccia. La conosci tu come cosa? Oppure magari la prossima volta te ne parlo io, ti do dei consigli io, che questa è l'unica cosa che so. Allora, ci sono delle creme doccia, shampoo anche. Ci sono, allora, dei prodotti bisogna chiederlo, bisogna chiedere proprio, cioè un beauty proprio fatto apposta, un servizio proprio fatto apposta, un shampoo, un bagno doccia, Perfetto, quindi una senti. crema. Però, allora, tu di solito consigli sempre delle creme particolari. Questa è una crema che io, almeno da quello che ho ricordo, la usava anche mia nonna quando ero ancora nel mondo dei minori. E mi ricordo questa crema che comunque è la Nivea, che ormai è diventata storia delle creme. Storica. È storica, esatto. E è una crema che troviamo ovunque, quindi. Sì, Cioè, dal abbastanza. supermercato, profumerie. Molto, sì. Quindi è anche facile trovarla. Quindi diciamo che per oggi consigliamo questa Nivea, che è una crema che possiamo utilizzare sia uomini che donne, giusto? Sì, giustamente. Ok, allora noi a questo punto andiamo con un altro pezzo e poi ritorniamo in diretta con la nostra amica Alice. Parliamo Abbiamo parlato delle creme, dei tuoi consigli per la bellezza, che ormai stanno diventando consigli di bellezza sia che per gli uomini che per le donne. Siamo passati dalle mie manine fatate alle mie gambe meravigliose, passando per tuoi consigli su creme e cremette che obiettivamente fanno solo che comodano altri ascoltatori. Allora, prima parlavamo anche di alcune cose, di alcune che riguardano principalmente la mobilità di Roma, quindi ora ti passo il mic così racconti agli ascoltatori. Praticamente quello che voglio dire della metro, sono molto hanno riaperto la metro C della stanno riaprendo praticamente questa metro C nel 2025. Signora mia, perché il 2025 è l'anno a Roma del centro storico, a parte il centro storico, del giubileo, signora mia. L'ultimo giubileo è stato un giubileo abbastanza particolare, parliamo del 2000, l'anno 2000 ha vinto Scudetto alla Lazio, nel 2001 ha vinto la Roma, quindi se ogni giubileo la capitale vince qualche cosa, a noi tifosi capitolini non darebbe fastidio, insomma, anzi farebbe solo che piacere accogliere tutta questa gente che si reca a Roma per pregare, per redimersi dai peccati. E quindi noi, visto che pecchiamo tutti i giorni aspettando i mezzi, cosa diciamo? Che finalmente qualche cosa si sta facendo per muoversi un po' più agevolmente. Però sono molto contenta che state riaprendo fino al 2025, state riaprendo questo centro questa metro C del centro storico. Sono molto molto contenta perché la state riaprendo, allora, anche da qualche mese perché è chiusa. Allora, quindi poi Alice, come consuetudine, quest'anno ancora un po' di meno, gli altri anni Alice andava a controllare, ci faceva un report delle cose se effettivamente erano state fatte, ci ha raccontato appunto delle scale mobili che hanno riaperto quando sono state chiuse a Piazza di Spagna e compagnia bella. Ma poi sono anche andata a controllare, qualche giorno che ogni giorno sono andata a controllare, tutti i giorni che venivo là al centro di Roma, sono andata a controllare che se che andassero avanti con i lavori, perché sennò che li paghiamo a fare questi operai? Certo, poi andare avanti, Ricordiamo anche che sono aumentati i biglietti dell'autobus, sono arrivati a ricche 2 euro. Ah, ecco, buono a sapersi. E soprattutto stanno a fare controllo, ci stanno parecchi controlli, quindi occhio che non si può più scappare. Detto questo, andiamo con un altro pezzo e poi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata ricca di chiacchiere. Anzi, no. Mandiamo un pezzo e poi ritorniamo perché non ci hai raccontato le cose che più ti fanno sorridere. Allora, le cose che mi fanno sorridere. Allora, ma parliamo e poi mandiamo un pezzo. Allora, Ali, quali sono le cose che più ti divertono? Le cose che mi divertono è quando faccio shopping. Hai capito? Cioè, lo shopping, quello di mettere l'allegria, la risatina, quella seria, è divertente. Sì. E poi? Soprattutto anche quando vado a fare la spesa con mamma. Ah, quindi diciamo che a te lo shopping è quella, fa spesa con mamma, appunto ti fa piacere, ti fa sta bene. Quando faccio spesa con papà, soprattutto quando vado a comprare le uova di Pasqua per Pasqua. E dai, è giusto, giusto, anche perché Pasqua si sta avvicinando. Pasqua si sta avvicinando per il 31 marzo. Ma senti un po', una domanda, visto che a Natale c'è il calendario dell'Avvento, a Pasqua che c'è? L'uovo dell'Avvento, no? Allora, io c'ho l'uovo di Pasqua di un'associazione, dell'associazione Isea, e poi c'è un uovo di Pasqua che è bellissimo, dalla Light Flow. Perfetto, allora noi andiamo con un pezzo e poi ritorniamo per i saluti finali. Serve un'idea continentale, Vorrei parlarti e mi vergogno come un cane. Tu aspetti il treno, io il cellulare. Non trovo l'asso da giocare. Ormai, ai, ai, lo sai. Quando pensi di star bene, poi ci rimani sotto. La notte se ne va. Un ragazzo incontra una ragazza. Le labbra sulle labbra. Poi che succederà? E comprerei con te la luna se ci avessi un po' di sole per cantarti ancora un po'. Un ragazzo incontra una ragazza. La notte poi non passa. Vedrai non finirà. Serve un'idea. Pane. Vorrei parlarti ma ho paura di ghiacciare. Siamo all'incrocio fondamentale. E avrei bisogno di una chiave. Ma ormai ai ai lo sai. Che sei un proiettile nel cuore. Però avevo il giubbotto. E lo sai. Cercarti un po' come aspettare ad un semaforo rotto. Tanto con te rischio male, ma se mi guardi così, se mi guardi così. Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. Un ragazzo incontra una ragazza, le labbra sulle labbra, poi che succederà? Incontra una ragazza, un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. Un ragazzo incontra una ragazza, le labbra sulle labbra, poi che succederà? Siamo ai saluti finali, nel frattempo è arrivato anche il nostro amico Lucone, che a cui passo il mic per i saluti purtroppo finali. Dopo aiuto. Perfetto. E la prossima volta ci racconterà qualche cosina, purtroppo oggi sembra che ci siano un po' di problemi, appunto, visto che si parlava di mezzi, di traffico. Il nostro amico Andrea ci ha impiegato molto per arrivare anche lui con i mezzi, anche Lucone purtroppo è arrivato anche lui tardi. Eh sì, stava dicendo, hanno dato il cartellino a De Rossi, eh sì, o fanno, o fanno. Senti, passo il mic a rotazione, così andiamo con i saluti finali e poi buon weekend a tutti e a tutti e ci risentiamo settimana prossima. Ciao a tutti, sono contenta per tutte le cose che ho raccontato. Dai, Ali. Ciao a tutti, buon weekend, grazie per essere stati con noi e un saluto a tutti i nostri amici di Welcome e Emanuele Petrella. Ciao a tutti! Ciao a tutti, alla prossima, buon fine settimana. Oh, dai, bella, raga, ci vediamo la settimana prossima. Ciao! Ciao a tutti, buon weekend a tutti e tutte. cose sembrano più tristi se viste dal retrovisore. La vita in fondo ci insegna è proprio così, una questione di angolazione, intonazione. Guardo solo posti cani, cambio sui telegiornali, con lavori stagionali e un futuro più remoto di paesi tropicali che ti appannano gli occhiali, mentre mezzo mondo muore, l'altro mezzo è già in piscina e fa qual gin. Carino il nuovo istruttore a casa all'Argentario, certo non è più quello di 10 anni fa, la luce, il microclima. Una possibilità di dire qualcosa di intelligente, nessuno la dà, e quando ce l'hanno tu vedi cafoni in ciabatte con l'artiglieria, mascelle rubate alla logopedia, vacanze di pizza che fa capodanno, che palle. Il politicamente corretto per me ha rotto soltanto i coglioni. Con questo sistema non parli, è solo così, puoi tenerteli tutti buoni, i pecoroni, che per fare i genitori con libretto di istruzioni ci bastavano i pizzoni, per capire quei concetti non servivano dottori, solo amici e due portoni, mezzo litro di scela, quattro pile per sentire i della sol. Qualcosa controcorrente, nessuno la dà, e quando ce l'hanno ti fanno canzoni depresse, soltanto il minore, più pusher che runner a Parco Sempione, il calcio, la moda, il vino francese, che palle. Una possibilità di dire qualcosa di intelligente, nessuno la dà, e quando ce l'hanno tu vedi cafoni in ciabatte con l'artiglieria, mascelle rubate alla logopedia, vacanze di pizza che fa capodanno, che palle.